cartellone di Elisabetta Fiorito. Io mi sento qui come mia casa, ti giuro, guarda. Io ho sentito oggi che la gente era con me, guarda. Per quello ho vissuto la gioia più grande della mia vita, perché al Boca abbiamo vinto e il Boca è il più grande di tutto il mondo. Però oggi ho provato una cosa nuova, una cosa che veramente, quando mi sono avvicinato allo stadio, mi veniva voglia di piangere, veramente, perché la gente aspettava tanto di noi che veramente abbiamo voluto fare di più. E i ragazzi della Curva Sud, le hai viste? Sei riusciti a vederli? Tutto lo stadio. Tutto lo stadio. Vi ricordate questi mitici anni? Buongiorno da Cartellone. Sì, una trasmissione di teatro, spettacolo e cultura, ma anche il calcio lo è. Anche se alcuni intellettuali, tra i quali anche la conduttrice di Cartellone, non lo considera tale, però anche il calcio lo è un pochino, ma soprattutto lo è quando è all'interno del Napoli Teatro Festival Italia del 2010, che si è aperto questo weekend e che andrà in scena dal 4 al 27 giugno, con un'anteprima oggi, e soprattutto una kermesse in 23 luoghi con 35 spettacoli, tra i quali anche uno dedicato al grande Diego Maradona. Addirittura musica d'autore per gol e orchestra con musiche di Roberto De Simone. Ma sentiamo che cosa accade in questo palcoscenico che diventa Napoli a giugno. Buongiorno a Renato Quaglia, organizzatore di Napoli Teatro Festival Italia. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, abbiamo scherzato un po' su Maradona, però sono tantissimi gli eventi, giusto? Sono molti gli eventi e effettivamente Maradona e con lui il gioco del calcio è uno dei temi che accompagnano e attraversano questa terza edizione Napoli Teatro Festival Italia. È un festival giovane che ha cercato una relazione con la città, non si tiene in uno dei piccoli centri con il centro storico che si può attraversare pedonalmente. Siamo in una metropoli, lo sentite anche dal traffico da cui vi sto chiamando. La sentiamo. Beh, sappiamo che Napoli poi il traffico, insomma, è notevole. ma effettivamente uno degli eroi tragici o mitici che questa città è riuscita a costruire. È quei suoi gol, alla sua vicenda, nell'anno dei mondiali di calcio naturalmente, il festival dedica un omaggio particolare. Roberto De Simone ha accettato di scrivere una partitura e l'orchestra, il coro grande dell'ente lirico del Teatro di San Carlo, la eseguiranno nei nuovi tempi della lirica internazionale. Io poi vedo anche che ci sono altri spettacoli dedicati al calcio, Football di Haris Pasovic. Che è un regista di Sarajevo in una coproduzione internazionale che coinvolge Singapore, coinvolge Bruxelles, Sarajevo e Napoli stessa, e che presenteremo anche a Johannesburg nei programmi ufficiali della FIFA ai campionati del mondo di calcio. Ma questo è uno dei temi, perché Napoli Teatro Festival Italia non è naturalmente solamente un omaggio al calcio, soprattutto un festival che ha scelto alcuni temi come quelli della durata, quelli dell'innovazione tecnologica, quelli del tango, quello del rapporto tra vinti e vincitori, per attraversare un programma che parla 17 lingue e che invita 20 paesi per più di 2000 artisti che fanno di questa città, tra questo sabato e il prossimo 27 giugno, una delle capitali europee della cultura. Allora, il filo conduttore di questa edizione è il tempo, inteso come tempo scenico e come durata effettiva degli spettacoli. Che vuol dire, Renato? Vuol dire che il tempo è qualcosa di cui difficilmente riflettiamo quando ascoltiamo o dobbiamo raccontare una storia. Quanto tempo ci occorre per raccontarle? E quanto tempo siamo disposti a dedicare ad ascoltare qualche cosa in un mondo fatto di affermazioni, di slogan e di fretta, talvolta anche di semplificazioni? Sì, ma si va anche da 12 ore fino alle 12 ore dei demoni di Dostoevskij, insomma, tempo della durata degli spettacoli è anche intenso. È lungo perché si determina, in alcuni casi si fa una proposta allo spettatore di partecipare a una comunità, Lo spettacolo Demoni di Peter Stein, dal testo di Dostoevsky, invita il pubblico a rimanere insieme per 12 ore in un teatro. Mangeranno, pranzeranno, ceneranno insieme, discuteranno, riposeranno, seguiranno lo spettacolo. Diventerà una piccola comunità quella che segue questo lavoro. Mentre invece, per contrasto, in alcuni luoghi d'attesa, ad esempio alle file della cassa di un supermercato invece che in attesa alle poste centrali del proprio turno, alcune compagnie napoletane porteranno in scena, realizzeranno, non teatralmente, dei brevissimi testi che alcuni autori italiani, da Dacia Maraini, Vincenzo Consolo, Apulsa Tilla, Elisabetta Reasi, hanno accettato di scrivere per noi proprio per i luoghi d'attesa, in quei luoghi dove noi siamo spettatori delle vite altrui, ascoltiamo frammenti di frasi, ricostruiamo una drammaturgia, una storia, immaginiamo storie di fronte a noi. E c'è anche però poi un classico, Romeo e Giulietta. Beh. Se io profano con la mia mano indegna questo santuario, è un peccato gentile. Le mie labbra, come due pellegrini, chiedono la grazia di riparare la rude offesa con un dolce bacio. Buon pellegrino, non disprezzare la tua mano, che ha dimostrato solo devozione. Perché i santi hanno mani che i pellegrini toccano con le mani, ma palma contro palma, questo è il bacio dei santi. I santi non hanno labbra come le hanno i pellegrini. Vabbè, abbiamo cercato una versione un po' cinematografica hollywoodiana con Leonardo DiCaprio, un po' profana, mentre voi andate in scena con il Teatro Mercadante, regia di Alexander Zelding, giusto? Giovanissimo regista inglese che ci ha proposto un punto di vista completamente nuovo rispetto a Romeo e Giulietta. Romeo e Giulietta nelle versioni più tradizionali sono due sfortunati amanti che per una serie di coincidenze e la catastrofe di cui si parla di Shakespeare non ci spiega perché quella lettera non arriva, semplicemente non accade, non arriva, perché sì, alla domanda perché non arriva la lettera, di fronte alla catastrofe soccombono e interrompono il loro possibile amore. Zeldin ci propone un altro modo invece di leggere quella tragedia. I due giovani stanno confrontando le loro aspettative, il loro nuovo modo di vedere generazionalmente la vita con quello dei genitori. Non riusciranno a convincere i genitori Montecchi, i genitori Capuleti, che devono cambiare il loro approccio, devono determinare una stagione diversa di relazione tra loro e la società in cui stanno vivendo. E soccomberanno a quel confronto generazionale, dove i giovani avranno la peggio sui genitori, dove i figli avranno la peggio sui padri. Ecco, la lettura che Zeldin ci dà, ci offre, coinvolgendo non semplicemente gli europei che all'epoca Shakespeare immaginò protagonisti a Verona o fosse nella sua Inghilterra di quel dramma, ma giovani europei, figli di immigrati di prima e seconda generazione, quei giovani europei che rappresentano la società multietnica europea che segna inevitabilmente il nostro presente, che sono figli di persone che sono arrivate per cercare lavoro, fortuna o solamente sopravvivenza in Europa, arrivando dalle coste dell'Africa del Nord invece che dal Medio Oriente. Queste persone hanno un confronto quotidiano tra le loro tradizioni originarie e quelle di un paese, di una cultura, quella europea, che ne chiede, ne propone di altre. Allora, ricordiamo Napoli Teatro Festival Italia, ringraziamo Renato Quaglia, abbiamo sentito in mezzo al traffico napoletano per organizzare tutto dal 4 al 27 giugno, la città diventa un vero e proprio palcoscenico, 23 i luoghi della città coinvolti, teatro storici, Real Albergo dei Poveri, il Maschio Angioino e anche l'ex birreria di Miano, il dormitorio pubblico, il Real Orto Botanico e le scale di Petraio e 35 gli spettacoli, ne abbiamo accennati solo alcuni, nel pomeriggio e durante la serata. Cartellone. E sicuramente teatro in Italia vuol dire anche il piccolo teatro Strehler di Milano, perché dal 5 al 30 giugno c'è la sesta edizione della Masterclass di Luca Ronconi. Il piccolo diventa quindi la casa delle scuole di teatro. Insomma, una tradizione, quella del piccolo di Milano, che si perpetua nel tempo. Buongiorno a Flavio Albanese, che dirige un laboratorio della casa delle scuole di teatro. Buongiorno a tutti, ciao a tutti. Allora, come si svolgerà il tutto? Perché in scena gli allievi di 5 scuole da Grecia, Spagna, Francia e Italia. E direi anche Marocco. E anche Marocco e Brasile, e Brasile. E poi un laboratorio a cura di Flavio Albanese. Che cosa sì. fa? Li mette sotto? Li mettiamo a lavorare. Un laboratorio non è una scuola di teatro, sia chiaro, non è un corso di perfezionamento, però è un laboratorio che tende a dare degli strumenti per capire un po' meglio cos'è questa cosa vastissima che è il teatro. Un laboratorio che non curo solo io diciamo lo coordino, lo curo, ho 40 ore di questo laboratorio, però ci sarà anche Antonella Stolfi che lavorerà sulla voce, Maria Consagra che lavorerà sul movimento per l'attore e Maris Flash che darà degli elementi della tecnica dei crudi, mimo, che poi Maris è stata anche mia insegnante quando io facevo la scuola di Strehler. E coordineremo questo lavoro in due sessioni, una più tecnica con appunto questi insegnanti che vi dicevo prima, Stolfi, Consagra e Maris e Flash, e di 10 ore per una, e poi io invece farò un lavoro sull'analisi del testo, come prendere un testo e tirar fuori gli elementi che servono a un attore per potersi attivare e cominciare a recitare. In questo useremo alcuni dei testi che verranno messi in scena durante la Casa delle Scuole di Teatro da queste compagnie e quindi questo gruppo di lavoro avrà la possibilità di analizzare il testo e poi di confrontarsi con la messa in scena di queste compagnie, confrontarsi oltre che con la messa in scena anche con gli attori e i registi di queste compagnie per poi tornare di nuovo a mettersi alla prova e provare praticamente alcune di queste scene. Ecco, ma il piccolo, diciamo, è sempre stato un po' il teatro di innovazione, no? Riuscirà poi a avere di nuovo questo primato o a continuare ad averlo rispetto magari a quello che sta succedendo nella drammaturgia romana, con l'India, con l'orologio, con teatri molto più alternativi? Ecco, questo laboratorio ci porta a nuovi orizzonti in campo teatrale? Beh, senz'altro dal punto di vista, diciamo, c'è un incontro di diverse culture, di tantissime culture, no? Abbiamo parlato di Spagna, di Grecia, di Italia stessa, di Cina, di Marocco, quindi il fatto stesso di riunirsi e confrontarsi crea un valore aggiunto al lavoro che si va a fare. Il panorama romano rispetto al panorama milanese è completamente diverso, stiamo parlando di una nuova drammaturgia che conosco abbastanza bene, lavorando nel contempo anche a Roma, ha avuto un suo sviluppo e diciamo anche un suo momento un po' strano adesso, non è una questione di nuova drammaturgia, è una questione di esseri umani che vanno alla ricerca di qualcosa. Certo, ma io infatti intendo dire, perché se ci fosse una dicotomia, no? Così Roma-Milano, allora c'è una sfida, magari anche Napoli, no. E secondo me è meglio perché il teatro vive no, in più città, ma la sfida, no? Attenzione, il termine sfida può avere un'immagine strana, la sfida deve essere uno stimolo, cioè certo, l'incontro certo, delle diversità deve creare un valore aggiunto, allora la realtà romana, la realtà milanese, la realtà napoletana, ma come la realtà di Marrakech piuttosto che quella di Atene, devono secondo me continuare a confrontarsi sempre per cercare quel qualcosa che ancora non si conosce, che nessuno di noi ancora conosce. Ringraziamo quindi Flavio Albanese, che sarà colui che curerà il laboratorio della Casa delle Scuole di Teatro, un masterclass al Piccolo di Milano, dal 5 al 30 giugno. Grazie. Grazie a voi, vi abbraccio tutti, ciao. Grazie. Ciao. Se non volevi potevi stare qui. Qui dove? Qui, con me e tua figlia. Invece di scappare in campagna e presentarti solo per dare lezioncina di morale. Dov'è Emilia? No, non è questa la domanda. Dove sei stato tu, tutti questi anni? Dov'è Emilia? È fuori, all'estero, sta lavorando. Da sola? È perfettamente in grado di badare a se stessa. La nostra bambina non è più una bambina. E smettila di fare il padre da manualetto di psicologia. E quello che avete sentito è un brano di Emilia Galotti, infatti il capolavoro di Lessing, in scena al Teatro India di Roma, regia di Alessandro Berdini, con tra gli altri Paola Rinaldi. Daniele Grigio interpreta il padre, no? Che cosa vuol dire interpretare questo capolavoro di Lessing e che cosa ci può dire il padre di Emilia Galotti oggi? Allora, intanto significa portare sulla scena per la prima volta in Italia questo dramma di Lessing. Significa però attualizzarlo, significa rispondere alla domanda che cosa sarebbe oggi Emilia Galotti, e questa è l'operazione che è stata fatta da Paolo Fallai e dal regista Alessandro Berdini, cioè è una come si dice, un adattamento contemporaneo, e si scopre, come sempre si fanno queste operazioni sui classici, che sono attualissimi. Quindi è la vicenda dell'incontro di questa ragazza con il potere, viene corrotta e viene portata alla morte. La cosa straordinaria del testo di Lessing è che la morte viene provocata dal padre, o meglio, nella tragedia Emilia si getta sul padre che ha un coltello in mano, perché il padre non può accettare questa corruzione della figlia. Tornando a me, io sono molto felice di interpretare questo ruolo. Il padre è un uomo debole, è un uomo come ce ne sono tanti, che probabilmente distratto dalla sua professione, distratto da tante altre cose, è un padre che ama in maniera forse un po' formale, un po' superficiale, e si accorge troppo tardi che la figlia si sta rovinando. E non ha più gli strumenti e non ha la forza necessaria per impedire che questo accada. La madre invece di Emilia Galotti è sicuramente un dramma, quindi è importante e interessante questa operazione. Per quel che riguarda il personaggio della madre, è buffo, perché è praticamente un Edipo al contrario, mettiamola così, questa storia di Elettra. Immagino che evidentemente al giorno d'oggi qualunque attrice tende comunque a come dire, attualizzare, a vedere al di là del testo che ce l'ha consentito, a vedere tutte le problematiche dell'essere madre oggi, la solitudine, e questa è una cosa che credo prescinda dai tempi, quindi da Lessing, Fallai, e prescinda dalle nazionalità. Questa è un pochino la cosa che mi trovo a interpretare. Allora, sentiamo un altro brano del dramma di Lessing. Davvero ti ha detto queste parole? Quando torni, non dire niente a tuo padre. Non credere a tutto quello che si presenta come pericolo. Spesso l'aggressività degli uomini è così fragile. Era Emilia? Sì, tutto bene. E perché le dispensavi consigli sull'aggressività degli uomini? Che cosa succede? Niente che non capiti a tutte le donne. È minacciata? È corteggiata, se la consideri una minaccia. A volte è una minaccia. E anche la vita lo è. Oh, ma è proprio così irragionevole ai tuoi occhi la mia ansia? Davvero credi che sia solo sciocca gelosia di padre? E non il timore per l'affacciarsi di nostra figlia, delle sue fragilità, ad una vita così spietata? Devo pensare che sei indifferente. Che cosa ti protegge dalla paura? Forse la convinzione che non sia così fragile. Che nostra figlia, come ogni donna, disponga di armi che gli occhi maschili neanche riescono a immaginare. La fiducia. Fiducia? In chi? In cosa? L'abbiamo lasciata sola in un mare di cui è davvero difficile avere fiducia. È in lei che ho fiducia. No. Quindi insomma una situazione, come sentiamo Daniele Grigio, abbastanza particolare, perché la madre ha fiducia, il padre invece teme questo attacco alla figlia. Sì, però non ha la forza, perché la cosa strana, purtroppo attualissima di questa coppia, è che c'è un uomo debole. Basterebbe che uno dicesse: senti, qui si fa come dico io e stop. Invece lui non ha la forza per imporsi su questa donna, perché tutto sommato pensa che abbia ragione la moglie, cioè pensa magari, ma sì, forse sono io troppo, no? Troppo che ho paura di questo, paura di quello, paura di quell'altro, forse ha ragione lei. E invece in questo loro conflitto, in questo loro rapporto di debolezze, perché alla fine sono debolezze tutte e due, la madre che, come succede spesso, sogna per la figlia, no? Un futuro di successi di nel mondo dello spettacolo, eccetera, eccetera. Il padre che tutto sommato dice sì, forse sono troppo qui, sono troppo là, e intanto la figlia va verso la rovina. Io trovo che sia, vabbè, c'è un grande dibattito in atto sui giovani, no? Che spesso i genitori vengono accusati di essere assenti o di essere troppo presenti con cose che non li formano, insomma è un po' questo. Questa coppia è un po' la sintesi di un modo, a mio avviso, sbagliato di essere genitori. Insomma, Emilia Galotti al Teatro India di Roma, il dramma di Lessing, abbiamo sentito con Daniele Griggio e Paola Rinaldi, regia di Alessandro Berdini. Grazie. Buona Grazie giornata. A voi, arrivederci. Cartellone. My dancers and also all the students Dominique has in Essen, in Folkwang, because they have a, I think sometimes they don't know what an incredible example he is, you know. How sincere, how what a discipline, how in each one and how serious. E quella che sentite è la voce di una grandissima coreografa, Pina Bausch, che ha un po' rivoluzionato la danza moderna, incluso anche elementi recitativi dentro la danza. E a Pina Bausch è dedicato il Riccione TV Festival. TTV Festival che si svolge dall'11 al 13 giugno proprio a Riccione. Siamo arrivati alla 20ª edizione, ci saranno moltissimi incontri ospiti, Pippo Del Bono, Maurizio Scaparro, Dan Fante, Alinus, insomma vari personaggi. Simone Bruscia, curatore del Riccione TTV Festival, giusto? L'edizione è giusta? Giusto, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Perché avete scelto Pina Bausch come elemento coadiuvante, come il collante di questo festival? Ma sì, è doveroso spiegare innanzitutto, nonostante il fatto che siamo arrivati alla 20ª edizione, di cosa si tratta, che cos'è il TTV, che è un festival organizzato dal Premio Riccione per il Teatro, che è una delle realtà artistiche di certo più antiche, forse tra le più importanti d'Italia, e proprio l'acronimo TTV per teatro, televisione e video, diciamo che è una branchia del Premio Riccione. È stato ideato il TTV nel 1985 da Franco Quadri e dal 2000 è diventato un appuntamento biennale qui a Riccione. E quest'anno il festival, che ha come location principale proprio il Palazzo del Turismo della città di Riccione, propone una dedica speciale proprio a Pina Bausch, direi quasi a un anno esatto dalla scomparsa di questa grandissima artista. E avendo appunto il TTV come oggetto, diciamo, di riflessione, il rapporto del video con le arti sceniche, quindi con la danza, con il teatro, ma anche le arti in generale, quest'anno per esempio ci sarà anche un focus molto importante dedicato alla letteratura, comunque sia abbiamo scelto proprio come filo conduttore quest'anno di dedicare proprio il nostro festival a Pina Bausch, al Teatro Danza di Pina Bausch. Allora, gli appuntamenti sono letteratura, musica e creatività. Che vuol dire creatività? Vuol dire che Riccione negli ultimi anni, devo dire, questa è stata un po' una scommessa di questa città, che nell'immaginario Riccione è spesso anche luogo comune di divertimento fino a se stesso. In verità è una città che negli ultimi anni sta diventando davvero un laboratorio attivo di studio e creatività, e riflette bene un po' anche il dinamismo di un territorio come quello romagnolo, che proprio sul fronte dell'arte e del teatro negli ultimi tempi è emerso in maniera importante. Penso ad esempio ad esperienze straordinarie come quelle di Motus, Teatro Valdoca, Raffaello Sanzio, ma anche a spazi unici e meravigliosi, aperte residenze che ci sono qua nel nostro territorio come l'Arboretto di Mondaino, o a un festival importante internazionale come Sant'Arcangelo dei Teatri. Il Premio Riccione naturalmente lavora e opera in questo contesto, e questi tre giorni, questo weekend appunto del TTV, sono è proprio un weekend all'insegna proprio della cultura. E quello che per esempio faremo con l'omaggio a Pina Bausch è davvero un itinerario inedito, direi senza precedenti in Italia, perché essendo comunque il TTV un festival che lavora soprattutto sul video, siamo riusciti a riunire 16 contributi video dedicati a Pina Bausch, quindi una sorta di rassegna video cinematografica degli spettacoli di Pina, e naturalmente si alternerà anche a delle prime assolute, come per esempio il film Dancing Dreams, che verrà proiettato per la prima volta in Italia, tratto da una variazione dello spettacolo Contact Off di Pina Bausch, e addirittura a Primer for Pina, che è un saggio televisivo che è stato ideato e curato da Susan Sontag e dedicato a Pina Bausch. Anche questa è una prima assoluta in Italia. Insomma, quindi, moltissime novità a Riccione TTV Festival, 11, 12, 13 giugno, per scoprire una Romagna completamente diversa dall'immaginario collettivo, ma è più discoteche o anche quelle, però soprattutto una Romagna impegnata nell'arte e nel teatro. Grazie. Grazie mille a voi. Grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più, biondi capelli e rose di guancia, Oscar ti chiamerai tu. Il buon padre voleva un maschietto, ma ahimè sei nata tu, nella culla ti ha messo un fioretto, Lady dal fiocco blu. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, tutti fanno festa quando passi tu. E adesso, ricordandoci quello che è stata la nostra infanzia, questa eroina nata femmina, però insomma poi spadaccina eccetera, grande fumetto giapponese, quando i fumetti giapponesi erano proprio il boom, rappresentavano il boom della televisione, noi andiamo a Novello in provincia di Cuneo per Collisioni, parole, storie, musica da un paese globale, e globale ce lo spiega perché abbiamo scelto Lady Oscar, Filippo Taricco, direttore artistico del Festival Collisioni dal 4 al 6 giugno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, perché? Abbiamo scelto Lady Oscar perché avremo questa grande fortuna di avere per la prima volta in Italia l'autrice del manga, la disegnatrice e l'autrice del manga di Lady Oscar, la mitica Ryoko Ikeda, conosciuta in tutto il mondo non soltanto per Lady Oscar ma per le sue tantissime opere a carattere storico. E ovviamente avremo anche Clara Serina, la cui voce abbiamo sentito poco fa, la mitica cantante della prima sigla di Lady Oscar, che sarà a Novello anche lei, e insomma due donne, che due vite parallele che si sono corse un po' in parallelo tutta la vita e poi si incontrano lì a Novello in questo strano posto che chiamiamo Collisioni. Ecco, questa autrice dei fumetti giapponesi, quanti anni ha questa signora? Perché noi la immagineremo sempre, non so, giovanissima, invece adesso dovrebbe avere una certa età. Signore, non si dice mai l'età delle signore, naturalmente, però possiamo dire che ormai Ryoko Ikeda insomma, è nata negli anni 40, quindi è una signora a tutti gli effetti, e avremo questo piacere di averla con noi. È interessante come lei abbia accettato di venire a Collisioni completamente gratuitamente, ci tengo a ricordarlo, perché Collisioni è un festival soprattutto dei giovani, per i giovani, che farà la caratteristica principale di quest'anno, saranno più di 250 ospitalità gratuite, vitto alloggio per tanti ragazzi italiani che hanno fatto richiesta e che verranno lì gratuitamente, e Ryoko Ikeda si è innamorata del progetto e ha detto che appunto farà questa fatica di raggiungersi dal Giappone per poter conversare anche con i ragazzi, con i giovani. Allora, ricordiamo Collisioni, parole, storie e musica da un paese globale a Novello in provincia di Cuneo, 4, 5 e 6 giugno, per conoscere materialmente la donna che disegnò Lady Oscar. Grazie Filippo. Grazie a voi. Thank you. quel gran genio del mio amico. Lui saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare, con un cacciavite in mano fa miracoli. Ti regolerebbe il minimo alzandolo un po', e non picchieresti in testa così forte, no, e potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare. Sì, viaggiare, evitando le buche più dure. Evitiamole, evitiamole queste buche, le evitiamo andando al Festival del Viaggio a Firenze dal 9 al 12 giugno. Sì, erano queste buche un po', anche un po' dell'anima. E Alessandra Costinelli, che cosa succede? Che cos'è questo Festival del Viaggio? Beh, il Festival del Viaggio è il primo festival italiano multidisciplinare che è dedicato al viaggiare. È la quinta edizione, la prima a Firenze. E, insomma, presentiamo un sacco di iniziative, spettacoli, cinema, conferenze. Allora, vedo, intanto, a piedi per vie Romee, lungo la via Senesa, la scoperta di una tappa dei pellegrini, perché il pellegrinaggio all'epoca faceva anche bene alla salute, diciamolo. Uno andava a Roma a piedi più, e insomma... Erano più magri, diciamo. Erano più magri. Bisognerebbe almeno fare dei pellegrinaggi laici oggi, però andare a piedi da qualche parte, no? Ma c'è chi lo fa, in realtà. Comunque, questo A piedi per le vie Romee è un'iniziativa dell'ente Cassa di Risparmio di Firenze insieme alla Regione Toscana, ed è una sorta di escursione guidata lungo la via Senese, che era una delle antiche vie Romee che insieme alla via Francigena portavano appunto i pellegrini verso Roma, ecco. Verso è una Roma. Delle iniziative del festival. Ma noi sappiamo, tutte le strade portano nella nostra magnifica città, almeno da dove viene trasmesso Cartellone. Ebbene, nel Medioevo era così. Senta, e invece Camminare il Mondo, le scarpe, il primo veicolo di spostamento umano, ecco, questo anche che cosa è? Perché vedo il Museo di Antropologia, sì. Quindi sì. Esaminerete i primi sandali, i calzari con cui l'esercito romano andava a conquistare la Gallia. Quale excursus storico globale sulle scarpe? Ecco, non tanto il materiale così antico, però diciamo che è una mostra di fotografia, una mostra foto etnografica a cura di Maria Gloria Roselli del Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze, e praticamente saranno in esposizione, in mostra, dagli stivali, diciamo, delle etnie dell'Alaska fino ai sandali del Congo e tutto quello che è stato recuperato nel corso di due secoli, 1800 e 1900 soprattutto, legato appunto a questo mezzo, il primo veicolo di spostamento, perché a piedi, diciamo, si andava, e per proteggere, diciamo, il piede si usavano le scarpe come primo mezzo di spostamento. È molto interessante questa mostra, perché in qualche modo fa capire come anche in passato, diciamo, non si definiva globalizzazione, ma comunque le civiltà non erano propriamente statiche, ma erano dinamiche, nomadi, si spostavano. Allora, scarpe comode, non coi tacchi ovviamente, poi la bicicletta nell'arte contemporanea, noi un po' questo ci appassiona, no? Quindi anche un altro mezzo di spostamento assolutamente ecologico come quello della bicicletta. Mi sembra che ci sia questa ricerca proprio di spostamento e di viaggio fatto in modo ecologico, o sbaglio? Sì, sì, assolutamente, c'è questa attenzione, anche perché oggi c'è una riscoperta da parte dei viaggiatori, giornalisti che scrivono, scrittori che pubblicano diari di viaggio, questa forte attenzione da parte loro, diciamo, a questo nuovo turismo sostenibile in qualche modo, e quindi grandi spostamenti a piedi, anche in bicicletta volendo. Questa mostra che è all'Istituto degli Innocenti in Piazza Santissima Annunziata a Firenze dal 10 al 24 giugno, è una mostra di arte contemporanea dove tantissimi autori italiani e non solo si sono cimentati, diciamo, in sculture e anche in quadri con biciclette o altri mezzi di spostamento. Insomma, ecco, tantissime cose al Festival del Viaggio Firenze dal 9 al 12 giugno, tanti incontri, un modo per riscoprire il viaggiare ecologico. Cartellone. E questo weekend è caratterizzato ovviamente per l'apertura, per l'opening, si dice, del Maxi, questa mega struttura, non si capisce bene, architettura, arte, insomma tutta Roma è assolutamente in tilt per l'apertura del Maxi. E addirittura da Milano è arrivata la nostra Adriana Fracchia a vedere, a curiosare che cosa succede in questa struttura. Allora Adriana, com'è andata? Allora, il Maxi fa da volano, l'ho preciso prima, questa cosa che mi sembra abbastanza importante, fa da volano a tutto un weekend dedicato all'arte contemporanea e a un lungo periodo di mostre e di eventi che riguardano proprio l'arte contemporanea. L'anno scorso di questi tempi era Venezia, quest'anno tocca a Roma questo compito, con appunto l'apertura del Maxi, che verrà aperto ufficialmente il 30 maggio al pubblico, con 4 mostre bellissime. Una si chiama Spazio, dalle collezioni d'arte e architettura, a cura di un gruppo interdisciplinare. Poi ce n'è un'altra di Gino De Dominicis, intitolata L'Immortale, curata da Bonito Oliva. Poi Luigi Moretti, architetto, dal razionalismo all'informale. Poi Kutlug Ataman, Mesopotamian Dramaturgies, che è la quarta di queste 4 mostre, tutte dedicate all'arte contemporanea. Questo spazio bellissimo, progettato da Zaha Hadid, che è una grande architetta iraniana. È bellissimo, guarda, ci sono delle luci stupende, delle vetrate che danno su Roma davvero spettacolari, i quadri e le opere che sono ospitate sono bellissime, c'è una collezione permanente di arte contemporanea davvero bella. Insomma, può essere definito il nostro Guggenheim, il Guggenheim di Roma? Assolutamente direi di sì, e appunto può far diventare Roma davvero un polo importante anche dal punto di vista dell'arte contemporanea, non più soltanto un museo a cielo aperto, ma anche un museo a cielo chiuso. Senti, un museo vero e proprio. Certo. Senti, tu hai sentito anche il direttore di Maxi Art, no? Allora, io ho intervistato nei giorni scorsi, ho intervistato il presidente Pio Baldi e lo possiamo risentire. Poi ho sentito anche il direttore del Maxi Art, Anna Mattirolo, e proviamo appunto a sentire qual è il suo parere. Ecco, sentiamo. Credo con questa operazione un po' che abbiamo fatto un po' tutti insieme, no? Noi del Max, il Macro e tutti gli altri luoghi del contemporaneo di Roma, ecco che finalmente Roma riprende il suo posto, insomma la storia non si ferma, abbiamo una storia talmente ricca, è una storia culturale, insomma talmente ricca che non può fermarsi, e quindi credo che questo gap adesso possa dirsi colmato, o quantomeno insomma stiamo lavorando per colmarlo. Questo edificio all'inizio, è inutile negarlo, ci preoccupava, e invece quando abbiamo cominciato a esplorarlo e a viverci dentro è stato davvero esaltante. Allora, abbiamo sentito insomma molte le iniziative del Maxi, ma mi dicevi Bonito Oliva che ha curato una mostra all'interno del Maxi. Sì, in particolare questa mostra di Gino De Dominicis che si intitola L'Immortale, e questa è la prima e più esaustiva retrospettiva dedicata a questo artista, che è stato una figura chiave per l'arte italiana contemporanea ed è un punto di riferimento per le giovani generazioni, ancora tutto da scoprire per il pubblico internazionale. Abbiamo intervistato Bonito Oliva, sentiamolo. No, invece è una archiscultura orgogliosa dei propri volumi interni, con cui uno si misura, è però anche una sorta di tempio della memoria, dal barocco al futurismo, che si confà la città di Roma, che è la città della memoria, è un teatro visivo e il più grande museo all'aperto. Lui dice che non c'è lo spazio per appendere i quadri e fare le mostre. Si possono fare le mostre, ho fatto la mostra di De Dominicis che si svolge in maniera molto, direi, struggente, dal basso verso l'alto, che va dai temi della entropia, dell'ubiquità, eccetera, per affrontare poi il tema della bellezza in alto. E quindi è una mostra ascensionale con una scrittura espositiva che si iscrive in questo spazio. Le polemiche che ci sono state? Quali? Quelle anche su De Dominicis, dicevano che non erano artisti contemporanei. Ci sono i cretini che hanno visto la Madonna e i cretini che non hanno visto la Madonna. Entrambi non sanno che De Dominicis è un artista profetico, un artista del XXII secolo. Con i suoi temi ha anticipato l'arte di Catalan, e quindi assolutamente mi sembra un'osservazione funerea e funebre metterla sull'anagrafe, sulla vita e sulla morte. De Dominicis trasfigura questi temi e pone il tema dell'immortalità, che è un tema che varrà sicuramente per i prossimi decenni, il prossimo secolo, e si confronta con la scienza. Poi ci sono anche quelli che sono apparsi alla Madonna. Sono io. E c'è anche invece un parere negativo, insomma c'è sempre il bastian contrario. Il bastian contrario in Italia si chiama con un solo nome, ovvero Vittorio Sgarbi. E lui dice che non gli piace il Maxi. E allora sentiamo perché. Penso che è uno degli edifici più brutti che sono stati mai fatti a Roma, però è una tendenza. Vengo da Toronto, dove c'è un analogo museo fatto da Libeskind, che ha pensato bene di fare tutte le pareti in diagonale. E qui, come si vede bene, non c'è una sola parete per appendere un quadro, quindi dà per scontato che ormai l'arte sia morta e probabilmente sarà un posto buono per fare delle feste, insomma, o per fare dei party. D'altra parte era bruttissimo anche il Beaubourg di Renzo Piano, quindi più una cosa è brutta, più viene ammirata. Insomma. Secondo lei qual è uno dei più bei musei d'arte contemporanea al mondo? Uno dei più bei musei d'arte contemporanea al mondo è il Kröller-Müller di Otterlo, dove evidentemente qualcuno ha pensato di far vivere lo spazio nella natura. Qui invece si vede com'è bello l'edificio sul fondo, quello restaurato, bastava continuare a restaurarlo così. È una scultura, è una scultura di Zaha Hadid che ha trovato persone disponibili a farglielo realizzare, lo Stato italiano, non sapendo come spendere 150 milioni di euro, hanno pensato bene di fare questo museo che è un, come dire, un monstrum che attira, perché il brutto è la chiave dell'arte contemporanea, più una cosa è brutta, d'altra parte la merda dell'artista non l'ho inventata io, no? Quindi siamo in clima, insomma. Manca l'odore. Allora Adriana, noi ti ringraziamo, ti fermi un po' a Roma oppure ritorni a Milano? Assolutamente, ci sono tutta una serie di party, feste, inaugurazioni. Ricordo che il Macro ha aperto un'ala nuova con un'altra archistar, Odile Deck, e poi c'è la Fiera dell'Arte Contemporanea, quindi non posso non fermarmi. Meno male, allora finalmente una milanese a Roma. E prima di chiudere ricordiamo due appuntamenti letterari. Lunedì 7 giugno ore 18 Massimo Lo Monaco presenta La caccia di Salomon Klein a Milano presso la libreria Murcia di via Galvani, e lo stesso Massimo Lo Monaco sarà anche presso la fondazione Camis de Fonseca di via Pietro Micca giovedì 10 giugno. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a cartellone@radio24.it o riascoltare la puntata sul nostro sito www.radio24.it. Cartellone si prende una pausa estiva, ma noi ci risentiremo durante l'estate. Allora un buon weekend, una buona estate a tutti.